seconda parte. Allora, i libri che sono stati scritti sul cyberpunk in italiano sono molto pochi e credo che questo è uno dei pochi che ho fatto con un mio amico tanto tempo fa. Però secondo qualcuno di voi credo ce l'abbia già, potete chiedere in prestito. Adesso farò io ho anni che devo fare un sito dove mettere tutta la mia roba, ma non c'ho mai tempo, se no sarebbe già disponibile. No, comunque questo qui è un testo sotto copyright, però credo che il contratto sia scaduto, quindi. Beh, è uscito nel 97, quindi sono 13 anni fa. Allora, la cosa che vi ho detto l'altra volta è di difficile applicazione, insomma, difficilina piuttosto. Cioè, è difficile fare una lettura biopolitica del cyberpunk per una ragione molto, o meglio, non che sia impossibile, però insomma, non è una cosa che vi posso chiedere di fare così dall'oggi al domani. Perché una delle caratteristiche del cyberpunk è che almeno in alcuni scrittori più che in altri, sicuramente in Gibson la dimensione tradizionale, diciamo, politica della vita associata è scomparsa praticamente, non c'è quasi, c'è qualche traccia nei suoi racconti giovanili, cioè nei primissimi racconti che ha pubblicato, poi poco a poco scompare. E praticamente l'idea che si dà è quella che ci sia una, come dire, una specie di gestione diretta anche degli aspetti politici delle cose, della vita associata, direttamente da parte degli agenti economici, cioè in gran parte delle multinazionali, che nei romanzi di Gibson si chiamano Zaibatsu, con un termine giapponese che vuol dire multinazionale. Se pensate sempre alle ultime cose della Fiat, però vedete che non è così fuori dal mondo. Vabbè, però diciamo due parole su cos'è questo movimento cyberpunk. Insomma, il cyberpunk è un... Allora, intanto io vi dirò quello che penso io, che però mi trova in posizione molto isolata e di forte contrapposizione con quasi tutti quelli che si occupano come me di queste cose qua. E io sono convinto che la fantascienza non esista più ormai come genere letterario. I generi letterari nascono e muoiono, quindi la fantascienza secondo me era il genere letterario tipico della società industriale, quindi è sopravvissuto quello che doveva sopravvivere fino a che è sopravvissuto la società industriale, cioè per tutto il Novecento. Quello che c'è adesso probabilmente non c'è più anche il giallo tradizionale a cambiare, insomma il sistema di generi letterari complessivamente che abbiamo ereditato dalla fine dell'Ottocento, primi anni del Novecento, è stato ormai terremotato. Il cyberpunk da un certo punto di vista è stato il canto del cigno della fantascienza. Per me è stata l'ultima tendenza. Da un punto di vista letterario è una corrente, un gruppo di una, diciamo, esperienza abbastanza limitata nel tempo, dura più o meno 10 anni, con alcuni, cioè diciamo grosso modo dura dal 1980 al 1990, quindi da 30 a 20 anni fa più o meno. Ammazza, come passo. Direi che io continuo a percepirlo come una cosa quasi contemporanea, perché l'ultima cosa, per l'ultimo aspetto della fantascienza di cui mi sono occupato. Gli scrittori che sono ancora praticamente tutti vivi, quegli scrittori lì, ma stanno praticamente facendo altre cose. Poi magari vi dico due piccole cose su Gibson. Da un certo punto di vista il cyberpunk potrebbe essere descritto, ma sarebbe una descrizione illusoria, credo, come la rinascita, cioè la riscrittura, la rivitalizzazione della corrente più tecnologica della fantascienza, cioè quella degli anni 40-50 del Novecento, più o meno quella di Asimov, insomma, riscritta e riadattata alle condizioni degli anni, dei tardi anni 80, dei tardi anni 70, primi anni 80. Però trovo che una definizione del genere sia un po' limitativa, in realtà, per il cyberpunk. È vero che c'è una componente forte di tecnologie, però il problema è che il cyberpunk viene fuori da un punto di vista letterario nel momento in cui l'immaginario tecnologico si sta trasformando. Quindi, da un certo punto di vista può anche essere vero che l'ispirazione gli era venuta da quello, però in realtà è un tipo di letteratura che riflette abbastanza bene la maggiore complessità dei rapporti fra tecnologia e immaginario, e in particolare è la prima vera, la prima e anche ultima, letteratura di fantascienza in cui le tecnologie dell'informazione, cioè l'informatica, diventa un elemento narrativo forte. Non lo era mai stata precedentemente. Tutto l'immaginario della fantascienza tecnologica classica, quella degli anni 40, 50, eccetera, erano tutte tecnologie hard, tutte tecnologie dure, tutte tecnologie, diciamo, elettromeccaniche. La fantascienza tradizionale, cioè quella pre-cyberpunk, si distingue, anzi, proprio potremmo dire, si distingue precipuamente, prevalentemente, per la sua incapacità di capire l'informatica. Non hanno capito mai un cazzo di informatica, e dai, hanno sempre, negli anni, faccio un solo esempio, negli anni in cui già era in opera la tendenza alla miniaturizzazione della componentistica dell'informatica, che avrebbe dato luogo pochi anni dopo alla nascita dell'informatica distribuita, cioè dei personal computer, tutti gli scrittori di fantascienza, la gran parte ancora, si dilettavano a rappresentare i computer come gigantesche macchine che stavano in pieno delle stanze, e già c'erano i primi cosi, quindi sono, voglio dire, fosse stato Verne, non si sarebbe lasciato scappare. Voi sapete che Verne ha sempre lavorato leggendo le riviste scientifiche e tecnologiche dell'epoca e facendo finta di inventarsi delle cose che c'erano già. Il sommergibile c'era già, ai suoi tempi erano dei prototipi, ma c'erano. Ha inventato il sommergibile Verne, non è vero, leggeva le cose e poi le scriveva. Gli storie di fantascienza neanche questo facevano. Siccome questi però cominciano a scrivere fra nel 77, 78, 79, 80, invece questo l'hanno invece capito, diciamo, cyberpunk. Quindi questa è una delle, come dire, componenti. La seconda componente è che, il secondo tratto caratteristico è che il cyberpunk è una vera letteratura del cyborg, cioè è la prima volta che i cyborg diventano i protagonisti in qualche maniera. Non che non ci fossero state, è ovvio che c'erano già stati da ben prima, insomma, figure di cyborg, eccetera, però non erano il centro, diciamo, narrativo della fantascienza, insomma, tradizionale, mentre invece il modo in cui lo esprime Bruce Sterling nella sua introduzione a Mirror Shades, che è uno dei manifesti del cyberpunk, è questo. Adesso vi cito a memoria la frase, perché mi sa che non la trovo nel giro, quando dice, a un certo punto dice, la tecnologia è scesa sotto la pelle. Questa è l'idea. Ma ovviamente non la trovo, perché se mi fossi preparato meglio prima, ma non l'ho preparata. Beh, per il cyberpunk, al contrario, la tecnologia è viscerale. Eh, facciamo allora brevissimamente scrittori e storia. Gli scrittori cyberpunk non sono tanti, sono pochi, il nome non gliel'hanno dato loro, loro si autodefinivano il Mirror Shades Movement, cioè il movimento degli occhiali a specchio, che era una delle icone del movimento. Gli occhiali a specchio sono gli occhiali da sole, come tutti sapete, che riflettono l'immagine, quindi che non fanno vedere gli occhi che ci stanno dietro, e si chiamano Mirror Shades in inglese. Lo scrittore sicuramente più dotato e più bravo, quello che ha vinto anche più premi, più insomma, famoso dal punto di vista letterario, è William Gibson, che è anche il più vecchio fra loro, perché ha qualche anno meno di me, quindi quando ho cominciato a scrivere già non era giovanissimo, sì, aveva un po' più di 30 anni. Ma però il suo teorico e il vero inventore di questo movimento invece è Bruce Sterling, non è stato William Gibson. Gli altri nomi che vagamente vi conviene tenere a mente, vi conviene ricordare, sono quelli di Lewis Shiner, John Shirley e Rudy Rucker. Comunque se andate su un po' di posto anche su Wikipedia altri nomi che sono trovati. Diciamo Shaina, Rucker e ho detto poi Shirley. E poi alcuni minori come Marsh Laidlaw. Che è morto nell'82, non è mai faccio questo. Dick è uno degli ispiratori delle persone a cui loro dichiarano essersi ispirate, come per altri versi Ballard, che era un ispirato di livello. Raccontiamo l'unica donna del movimento che si chiama Pat Cardigan. Allora, io di questi qua l'ho conosciuto personalmente solo te. Shiner non l'ho mai visto, e Shirley neanche, e Laidlaw neppure, e la Pat Cardigan neanche, anche se di Laidlaw ho tradotto un libro. E William Gibson comincia a pubblicare i primi racconti. Il primo racconto in assoluto è del 1977, ed è frammenti di una rosa olografica, se c'è tempo quest'oggi lo leggiamo. Nel 1981 John Shirley pubblica City Come Walking, tradotto in italiano come Il rock della città vivente, in cui si ipotizza che la città sia un organismo vivo. La Gino. E nel 1984 William Gibson pubblica il suo primo romanzo, che si chiama Neuromancer, per utilizzarlo come neuromante. Nel 1986, cioè 2 anni dopo Neuromante, esce Mirror Shades, il cui sottotitolo è già The Cyberpunk Anthology. Quindi il termine cyberpunk vuol dire che si è già imposto. Tra l'80 e l'86 il movimento si autonomina Mirror Shades Movement, ma poi un critico si inventa questo nome, in realtà non se l'ha inventato lui, insomma dice che sono i nomi con cui è stato indicato questo piccolo gruppo di autori, alcuni li hanno chiamati, dopo che è uscito Neuromante, Norman Spinrad, che è un altro scrittore di fantascienza importante, più o meno loro compagno di strada, ma più vecchio di loro, più vecchio anche di me, che però viveva già a Parigi in quel periodo. nuova matera da, in questo termine, neuromantics, i neuromantici, perché c'era il neuromante, insomma, ha giocato con l'assonanza, neuromantici. Allora, Mirror Chase Movement, neuromantics, però insomma cyberpunk è stato il nome che si è imposto poi. No, dunque, il termine cyberpunk è stato usato per loro dal critico americano Gardner Dozois. E successivamente adottato dalla Ellen Detlow, che è una di quelle che ha fatto l'antologia più importante di cyberpunk al di fuori di quella di Sterling. In realtà il termine cyberpunk probabilmente è stato usato da un altro scrittore totalmente ignorato, che si chiama Petke, in un racconto a metà degli anni 70. Però Petke non ha mai, come dire, rivendicato la paternità. Quindi è stato Dozois che ha preso il termine cyberpunk e lo ha adattato a questi ragazzi qua. Mirror Shades, che allora, qualche anno prima, non mi ricordo quando, nell'82 o nell'83 credo, Bruce Sterling scrisse sotto lo pseudonimo di Vincent Omnia Veritas, quindi pseudonimo latino, Vincenzo Ogni Verità, Omnia Veritas, scrisse una cosa chiamata Manifesto della Nuova Fantascienza, The New Science Fiction Manifesto, e successivamente nell'86 una introduzione all'antologia Mirror Shades. L'insieme di questi due testi, la Nuova Fantascienza di Omnia Veritas e la Protezione Mirror Shades, costituiscono di fatto il manifesto del cyberpunk, il manifesto teorico del cyberpunk. Il successo di questo gruppo di persone fu, nell'anno dopo, nel 1984, Neuromante vince la tripletta dei premi più importanti della fantascienza americana, che sono tre. Prima erano due, poi dopo la morte di Dick si è aggiunto quello di Dick. Sono il premio Hugo, il premio Nebula e il premio Philip K. Dick. Il premio Hugo è un premio assegnato durante le convention di fantascienza, quindi gli incontri annuali dei fan, dei fanatici della Vanessa, quindi è una specie, come dire, di premio bancarella, insomma, in cui vota il pubblico in qualche maniera. Il premio Nebula invece è dato dall'Associazione degli Scrittori di Fantascienza Americana, quindi è quello degli intellettuali, insomma, si fa per dire se gli scrittori di fantascienza possono essere considerati intellettuali. E il premio Philip K. Dick ha un'altra invece giuria ancora più ristretta a parte. Bene, nell'85 Neuromante vince tutti e tre questi premi, vince sia lo Hugo per Nebula che il Philip K. Dick. Ovviamente questo genera un sacco di, come sempre succede in tutti i mondi piccoli e asfittici come quello della fantascienza è, in Europa più che in America, ma anche in America è un piccolo mondo, in tutti questi mondi qua ovviamente questo genera rivalità, per cui insomma polemica non finire, cazzate. Comunque io insomma, vi dirò che io andavo in giro in Italia alla fine degli anni 80, primi anni 90 a fare conferenze sul cyberpunk e venivo costantemente bersagliato da una serie di domande diciamo lettori di fantascienza tradizionali irritati dal successo del cyberpunk, dicevano ma non ci sono il cyberpunk, ma è qui, ma perché parlo sempre del cyberpunk, cioè sempre così, cioè ogni conferenza che io facevo era questa. Io passavo già allora per essere un esperto del cyberpunk, alcuni di voi già lo sanno, le battute ripetute so che, però alcuni non lo sanno, quindi ve lo dico lo stesso, e diciamo creavo molto sconcerto tra l'uditorio, perché quelli che non mi conoscevano di persona, perché si aspettavano una persona con, diciamo, giovane, con una cresta di capelli viola e un sacco di piercing addosso, o quantomeno c'era, ma non ero io, non ero, cioè, come lei, che c'è carnia, perché c'è carnia, dice, sia che io venissi presentato come esperto, sia come esponente del movimento cyberpunk, venissi presentato così. Quindi deludevo moltissimi. Più poi gli deludevo perché gli parlavo solo di questa fantascienza che al lettore tradizionale non è mai andata giù, perché il tradizionale anche in Italia voleva Asimov, voleva. In quegli anni lì ancora non era scoppiata, per esempio, in Italia il culto che scoppiò pochi anni dopo per, diciamo, Philip Dick. Quindi tutti gli autori di cui io mi occupavo, Ballard, Dick e Cyberpunk, erano autori che al meglio lettore di fantascienza lo facevano cagare. Va bene lo stesso. Vabbè, quindi insomma ha un grande successo, tutta la cosa ne parla, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo detto, allora, diciamo, se prendiamo come terminus a quo, come data di inizio, diciamo, del movimento, la fine degli anni 60, cioè gli anni in cui Gibson comincia a pubblicare i primi racconti, 77, 78, 79, si può dire che l'anno di nascita, la fine del movimento è il 1990. Nel 1990 esce un romanzo scritto a quattro mani da Gibson e Stirling. La pratica della scrittura a quattro mani era molto diffusa. Troverete racconti scritti a quattro mani, cioè da due persone diverse, sia in Hero Chase che in altre antologie. Nel 1990 Gibson e Stirling pubblicano un romanzo che si chiama The Difference Engine, tradotto malissimo, no, il testo è stato male, il titolo è tradotto in maniera orrenda, in italiano come La macchina della realtà, invece è La macchina differenziale, e The Difference Engine è un romanzo, tecnicamente è una ucronia, e si può a scrivere invece che al movimento cyberpunk, al parallelo movimento chiamato steampunk, che è un movimento ancora più ristretto di quello cyberpunk, che più o meno però, che non ha però la stessa importanza nell'immaginario, non aveva perlomeno in quegli anni la stessa importanza nell'immaginario che aveva il cyberpunk, e diciamo indica una ucronia, cioè una storia parallela, una storia differente. La cui ipotesi fondamentale era che come si chiama? In inglese, cazzo, adesso mi sta per nome. Charles Babbage. Era che l'inglese Charles Babbage negli anni intorno al 1830 fosse realmente riuscito a costruire una macchina da lui chiamata Analytical Machine o Difference Machine, che era una sorta di protocalcolatore che egli progettò negli anni intorno al 1830 e parzialmente costruì, ma non era una macchina elettrica, era di fatto una specie di pseudocomputer, era una specie di supercalcolatore, di macchina calcolatrice, però fatta con tecnologie elettromeccaniche, quindi con leve, ingranaggi, ruote dentate, che ovviamente Babbage non fu mai in grado di costruire, ma che rimane nella storia della proto-informatica. Allora, Gibson e Stirling immaginano che invece Babbage l'abbia costruita e che questo abbia portato nella Inghilterra vittoriana, quindi nell'Inghilterra della Regina Vittoria, a una sorta di civiltà, di, diciamo, cultura informatica non elettrica, ecco perché il nome è steampunk. Quindi lo steampunk è un cyberpunk a vapore, steam, non, diciamo, elettrico, non cyber, no, steampunk. Il libro è abbastanza interessante, una delle protagoniste, un personaggio femminile più importante è Ada Lovelace, cioè ci sono personaggi storici mescolati con personaggi irreali. Lord Byron è il primo ministro d'Inghilterra in questo romanzo, mentre Disraeli, che fu davvero primo ministro negli ultimi anni della Corte Vittoriana, invece è uno scrittore di fantascienza. Questa cosa già l'aveva fatta Spira anni prima, in cui aveva scritto un romanzo chiamato The Iron Dream, il sogno di ferro, in cui in cui Adolf Hitler era uno scrittore di fantascienza che si era inventato un mondo simile al suo. Quindi sono cose che si fanno ogni tanto nella fantascienza. E non c'è nessuna comune di Parigi nel 1870, in questo romanzo, ma c'è, ai ai, guarda, guarda, una comune di Chicago. E infatti Karl Marx attraversa l'oceano in quell'anno lì per andare a, diciamo, trovare i lavoratori di Chicago che hanno preso il potere e hanno realizzato una effimera repubblica proletaria negli Stati Uniti. Insomma, ci sono. Perché dico che questo? Perché per espressa, diciamo, dichiarazione dei due autori, questo è diciamo, il canto del cigno, insomma, è la fine, non c'è più da. Dice, con questo noi consideriamo esaurito questo periodo. Allora uno dice, ma perché si parla così tanto e perché è rimasto così un nome che in fondo, cazzo, per un movimentino che ha messo insieme sì o no una decina di scrittori ed è durato sì o no 10 anni? Perché in realtà già un po' negli anni, un po' prima del 1000, fino a, nei primi anni, negli anni intorno al 1990, ma più ancora negli anni successivi, il termine cyberpunk viene fagocitato, viene strumentalizzato, viene utilizzato da gruppi di persone diversi, cioè da persone che non sono più scrittori né prevalentemente lettori di fantascienza, ma sono personaggi diversi, sono quelli che si cominciavano già da qualche tempo, da qualche decennio, a chiamare hackers, cioè i nerd della tecnologia, e soprattutto coloro che avevano come filosofia base della propria vita, aprire le scatole nere, mettere le mani nei dispositivi che ci vengono consegnati perché facciano delle cose e vedere se possono farne delle altre, autodeterminare il proprio uso delle tecnologie, mettere le mani quindi, autogestire la tecnologia. Il movimento internazionale degli hacker che ha alcuni settori molto molto limitati che potremmo definire vagamente politicizzati, che possono essere considerati in qualche maniera degli eredi delle controculture, soprattutto di quelle psichedeliche degli anni 60, ad alcuni di questi che sono anche lettori di fantascienza il termine cyberpunk piace e soprattutto gli piace che cosa? Perché dentro il termine cyberpunk fino dall'inizio c'è è una specie di ossimoro, cioè c'è il riferimento al punk, quindi ad un movimento di opposizione sociale che è ovviamente diciamo, l'erede più chiaro e più classico dei movimenti controculturali di 20 anni prima, però con un atteggiamento cyber. Nella sua introduzione a Mira O'Shea, sicuramente sbagliando, ma insomma, Bruce Sterling scrive: la controcultura degli anni 60 era pastorale e romantica, antiscientifica e antitecnologica, ma essa aveva al suo centro una contraddizione nascosta, rappresentata dalla chitarra elettrica. La tecnologia del rock era la lama del cuneo. Col passare degli anni questa tecnologia è cresciuta e si è raffinata, registrazione di alto livello tecnico, video via satellite, grafica computerizzata e la ribelle cultura pop lentamente sta migrando verso l'esterno. Gli artisti d'avanguardia oggi sono spesso dei tecnici di punta, si sono messi a fare i quattrini. Sono maghi degli effetti speciali, sono maghi degli effetti speciali, maestri del mix, tecnici degli effetti su nastro, hacker grafici, tutte figure che attraverso i nuovi media stanno emergendo nella società dello spettacolo e si portano dietro le proprie prestazioni come il cinema pornografico e i concerti di beneficenza tipo Live Aid, è sempre un po' pungente in Bruce Sterling quando parla. La contraddizione è diventata integrazione. Quindi l'hacker e il rocker sono gli idoli della cultura pop di questi anni e il cyberpunk è un genuino fenomeno pop, spontaneo, pieno di energia, vicino alle proprie radici. Il cyberpunk viene dal territorio dove l'hacker e il rocker si fondono, da un brodo di coltura in cui si mescolano filamenti genetici impazziti. C'è chi trova il risultato bizzarro e persino mostruoso, c'è invece chi in questa integrazione ripone una formidabile speranza. E va bene. Il cyberpunk nel nuovo significato, cioè nel modo in cui viene declinato dai movimenti controculturali, dalle componenti controculturali degli hacker, soprattutto in Europa più che in America, e soprattutto in Italia e in Germania più che in altri paesi, ma insomma, però così è andata, praticamente questo cyberpunk, quindi questo modo, questa variante, questo nuovo significato del termine, ovviamente è un significato più, virgolette, sociale, più... E in effetti il termine viene usato soprattutto dai componenti del Chaos Computer Club di Amburgo, che è era, ed è ancora adesso più o meno la realtà, ora non sono più solamente ad Amburgo, ai tempi stavano quasi solo ad Amburgo, diciamo è la realtà di hacker organizzati più grossa e più importante della Germania, e in Italia viene usato da un gruppetto di giovanotti, insomma, trentenni, alcuni trentenni più o meno, intorno ai, cioè, alcuni non avevano neanche 30 anni, che vengono da una delle esperienze del tardivo punk italiano e milanese, che è il centro sociale Virus di Milano. Gli occupanti del Virus, comunque il punk è un movimento che in Inghilterra si sviluppa tra il 75 e il 77, ma nel resto d'Europa si sviluppa qualche anno più tardi, in Italia arriva fra l'80 e l'81 in questo modo. Il Virus, diciamo, non era propriamente un centro sociale, era una specie di roba a metà tra un locale, era comunque squatting, era comunque occupato, però era così, insomma. Cacciato dal Virus, il gruppo di persone guidato da personaggi dall'improbabile nome come Gomma e Valvola, che però hanno anche dei nomi anagrafici, come ovvio, o Filopat, che era il più giovane fra quelli, ma insomma, c'era pure lui. Questi qui, praticamente, una volta andati via dal Virus, frequentano la libreria Calusca, che all'epoca stava in corso di Porta Ticinese, e non come ora al centro sociale Conchetta, e c'era ancora il titolare di questa libreria, era ancora vivo Primo Moroni, che era quello che aveva fondato questa libreria, singolare figura di ex ballerino e esponente di un underground un po' particolare, insomma, esponente delle leggere cosiddette milanesi, insomma, mezzi malavitosi e mezzi hippie, insomma. Primo aveva qualche anno più di me, insomma, anzi forse quasi una decina d'anni più di me, e quindi aveva una storia, sono vecchia. Vabbè, questi giovanotti qua girano intorno lì e a un certo punto sentono parlare di Tutorial Park, decidono, fanno una rivista che si chiama The Coder, che si chiamava Le Cose, in omaggio a un film di un cyberpunk tedesco, che era Klaus Mack, che ha fatto un film che si chiamava The Coder, che era il decodificatore, insomma, e dopo un po' fondano una casa editrice che si chiama Shake. Questo è il cyberpunk italiano. Il cyberpunk italiano, compreso alcune altre cose. Io nel 1993, quando nasce una rivista che si chiama Virtual, la prima cosa che faccio per questa rivista Virtual, faccio nel 93, faccio un viaggio, scrivo tre articoli che sono un viaggio nel cyberpunk italiano. E nel progetto c'erano quattro diverse città, poi ne faccio solo tre per una serie di motivi, le tre città sono Milano, Bologna e Firenze. No, Bologna e Firenze. E ovviamente a Milano, comincio con Milano perché, comincio con Bologna perché mi sembrava in quel momento fossero i più attivi, e a Bologna intervisto quelli che sarebbero diventati poi il gruppo di Luther Blissett bolognese, insomma, più alcune scrittrici, una scrittrice e altra gente, e Elena Velena, quello che ai tempi non si chiamava ancora Elena Velena, ma Giampi Velena, prima non aveva ancora fatto l'outing transgender. Insomma, quindi faccio Bologna. Poi faccio Milano e ovviamente parlo della Sheikh con cui ci conoscevamo, eravamo già amici. E avevo fatto una cosa con loro a Sant'Arcangelo l'anno prima. E come terza città prendo Firenze, perché lì c'è il gruppo dei giovanotti mondani meccanici, che era un gruppo collegato con Frigidaire e alcuni altri hacker, programmatori, erano meno, insomma, comunque c'era una scena cyberpunk in Italia, non solo milanese, ma ovviamente il centro più forte era quello milanese, insomma era, diciamo, la Shake. Attualmente il gruppo della Shake, per una serie di motivi, si è scisso, si è diviso in due, per cui Gomma e Valvola continuano a gestire la vecchia Shake, mentre Marco Filovat, il più giovane del gruppo, si è staccato 3 anni fa e ha fondato un nuovo gruppo che si chiama Agenzia X e la casa editrice Xbook. Com'è che si chiama Milano? Filopatè, l'autore del romanzo, del romanzo Costretti a sanguinare, che esce con la Shake ancora, certo, e che è la ricostruzione delle cose, un libro di memorie sul virus, cioè racconta l'esperienza del virus. Poi pubblicato anche da Inaud, la prima edizione uscì con la Shake. Allora, questo cyberpunk ovviamente è un cyberpunk che valorizza l'immaginario letterario, ma lo coniuga in una, come dire, diciamo, intanto con una visione controculturale più ampia e poi con una, virgolette, chiamiamola, in qualche modo anche con una specie di, diciamo, intervento politico, insomma. A Milano rapidamente, insomma, la Shake e ora anche la nuova, diciamo, la costola neonata Agenzia X hanno fatto riferimento, dopo la chiusura del virus, quasi sempre al centro sociale Conchetta, perché era quello in cui Primo Moroni aveva trasferito negli ultimi anni della sua vita, venendo sfrattato in continuazione da un posto all'altro, la sua libreria, e che c'è ancora adesso. Anche dopo la morte di Primo Moroni c'è, cioè, la libreria Calusca, sta in Conchetta, quindi è un punto di vista, insomma, un po' va bene. Voglio dirvi un'altra cosa, voglio fare una appendice che mi sono dimenticato di fare al cyberpunk letterario. C'è una specie di seconda, è stata chiamata seconda generazione di scrittori cyberpunk. Ma in particolare ve ne dico uno, perché è uno interessante. Se trovate i suoi libri e voleste fare un lavoro su questa persona qua, io non me la prenderei, anzi. Dopo che il cyberpunk è già finito, letterariamente parlando, quindi dopo l'uscita del Different Engine, escono fuori, che intanto si sviluppa un po' questo movimento steampunk sulla base proprio del fatto che Cristendina è una via di cosa steampunk, ma c'era già qualcosa prima. Ma soprattutto vengono fuori alcuni scrittori, il cui principale è Neal Stephenson, il quale, sviluppa alcune delle intuizioni che aveva avuto Gibson. Ora, Gibson, sapete tutti che è famoso prevalentemente per avere inventato il termine cyberspace, cyberspazio, e anche Matrix. Anzi, Matrix e cyberspace per lui sono la stessa cosa, solo che Matrix è il nome che gli dà nei primi racconti, e cyberspace è il nome che gli dà in Neuromante. Quando i fratelli Wachowski hanno deciso di fare questo film, hanno semplicemente preso il vecchio nome. Che no, per errore mi sono perso. Neal Stephenson? Uno, due, tre, quattro, non parliamo dopo. Non ha preso nulla. Vi ho detto. William Gibson è famoso per aver inventato il termine cyberspace, e anche Matrix, perché in realtà è stato anche Matrix. Fino a un certo punto lo chiama Matrix, questo mondo illusorio, virtuale, che sta dall'altra che sta dall'altra parte dello schermo del computer, dopo un po' lo chiama cyberspace. Stevenson lavora su questa idea di cyberspace e costruisce allora, in realtà nei romanzi di Gibson ci sono due concetti diversi. Uno è il cyberspace, che è quello che più o meno conosciamo noi, che è un posto in cui avvengono gli scambi commerciali e politici e anche militari delle cose, e in quello in cui vanno i cowboy del cyberspazio. E poi c'è il SimSteam, che è una specie di TV olografica interattiva che ha un'altra funzione. Neil Stephenson fonde insieme il cyberspace e il SimSteam di Gibson e li chiama con un termine che conoscete anche questo, che è Multiverse. Lo chiama il multiverso, e su questo multiverso costruisce un folgorante romanzo che si chiama Snow Crash, e questo è il titolo con cui è comparso in italiano anche, uscito dalla Shades la prima volta. Snow Crash, seguito da altri due libri importanti che sono The Diamond Age e soprattutto il mastodontico e terribile Cryptonomicon, che sono più di 1000 pagine. Vi cito Stevenson e Snow Crash perché il multiverso, diciamo il mondo di Stevenson, rappresenta per certi versi una variante dal punto di vista dell'organizzazione politica e dei rapporti tra politica ed economia rispetto alle opere di Gibson. Soprattutto in Snow Crash, più che negli altri due, ciao. Stevenson si immagina un processo analogo a quello che si è immaginato Gibson, cioè di deperimento del ruolo politico delle istituzioni statali tradizionali, dei diciamo, dispositivi tradizionali dello Stato. Però mentre in Gibson sembra che non ci sia niente che prenda il posto di queste cose, perché sono direttamente diciamo, le multinazionali che... In Snow Crash di Stephenson il processo è analogo, ma è descritto in modo molto più preciso, anche molto più divertente, perché assistiamo a una specie, si è assistito nel mondo che scrive Stephenson, che è un mondo abbastanza vicino al nostro, cioè era 10-20 anni, no, 20-30 anni. Cioè il metaverso. Incazzo, scusa, se non ci fosse stato il sì, però è una cosa che non c'era. Se ve lo cercavate così non lo trovate mai. Cancellare tutto adesso, cancellare tutto. Certo. Più o meno come adesso o come era quando ha scritto questi libri era molto più giovane, quindi non sapeva ancora cosa faccia lì, non aveva i baffi così. Allora, com'è il mondo di Snow Crash? È un mondo in cui gli Stati Uniti territorialmente non esistono più, perché si sono frammentati in una serie di mini stati, alcuni dei quali a macchia di leopardo, basati su cosa? E qui c'è l'idea gibsoniana, basati sul principio del franchising. Cioè, c'è una... però chi fa questo franchising? La cosa buffa è divertente che il franchising non lo fanno soltanto... le multinazionali, ok? Non lo fanno soltanto gli stati, ma lo fanno anche le grandi organizzazioni criminali, per esempio la mafia. Allora ci sono una serie di stati che si chiamano tutti pizzeria dello zio Piero, sono cazzo una roba così, ma si è scritto negli Stati Uniti, no? E c'è questa cosa divertente di questo mondo neofeudale, insomma, no? In cui non c'è più uno stato territoriale, ma si è preso atto, quindi voglio dire, il processo è simile a quello che aveva descritto Gibson, però è, diciamo, descritto in modo molto più, diciamo, articolato. E poi Snow Crash è un virus particolare, bla bla bla, questo metaverse ha una... grazie per averlo detto, se no uscivano con una informazione sbagliata. Allora, questo metaverse è un, come dire, ha una rappresentazione molto cinematografica, perché è una specie di lunga via che taglia in due uno spazio, un grande viale che taglia in due uno spazio virtuale, e da una parte e dall'altra sono delle case che sono diciamo, virtuali, no? E dentro ci sono gli avatar, come ovvio, quindi il termine avatar c'è, se no piace anche la prima volta, che non la prima volta, ma è il libro che ha dato più, diciamo, risalto prima del film al termine avatar, quindi è quello che ha creato il metaverse e sono le diciamo, fattezze virtuali con cui si presentano i personaggi. Per il resto, sia Snow Crash che gran parte dei racconti e dei romanzi del primo Gibson, tecnicamente sono delle specie di noir, sono più che fantascienza, cioè, diciamo l'impianto è fantascientifico, però le storie raccontate sono dei noir. C'è chi rimprovera a Gibson di non essere mai stato capace di scrivere un plot, una trama noir buona, e quindi che i suoi libri zoppicano da questo punto di vista. In effetti Neuromante ha un finale complicatissimo e di difficile comprensione, io confesso di non averlo capito manco io, nel senso che so che poi abbiamo delle interpretazioni differenti spesso con la persona, quindi non, è una cosa abbastanza complicata. Nel caso di Gibson è un po' più semplice la cosa, però c'è sempre questa idea, c'è sempre questo, e c'è questo personaggio, questo eroe un po' romantico che è Chito, si chiama Chiro, in No Crash, Case, in Neuromante e via via, che sono molto simili agli investigatori dei gialli della Hard Boiled School americana degli anni 30, cioè i personaggi di Dashiell Hammett e di Raymond Chandler, e Sam Spade, sono questi qua. Però insomma, quindi c'è già una prima commistione di generi, una prima cosa, anche alcuni romanzi di Asimov degli anni 50 erano costruiti su un meccanismo giallo, però insomma qua nel cyberpunk l'integrazione tra i generi comincia, insomma, c'è una componente che oggi diremo noir che è molto forte. Allora, vi devo, purtroppo non abbiamo il tempo di leggere, Marco, neanche un racconto, cosa che pensavo di fare, comunque, tanto se questi racconti non li trovate in giro è pure difficile vedere. Che, ovviamente, quasi tutti voi, chi vuole lavorare su un'opera letteraria, in genere prendete un romanzo. Ora è ovvio che è più semplice lavorare su un racconto perché è più breve ed è possibile fare un lavoro molto più approfondito, però se non trovate il testo. Allora, vi voglio dare soltanto una breve, qualche indicazione di metodo su come è possibile, poi ognuno si legge come gli pare a lui, ma insomma diciamo quello che a me interesserebbe sapere da una lettura di un testo, diciamo, narrativo. Allora, naturalmente non ha senso, non è neanche giusto, insomma, staccare totalmente l'ambito formale, diciamo la forma di un'opera letteraria, insomma, dal suo, diciamo, contenuto. Se vedete Gibson e se vedete Sterling trovate due scrittori con stili, modi di scrivere totalmente differenti, molto diversi, eccetera, e qui però anche con dei contenuti diversi. Per esempio, Gibson rimane fedele grosso modo a una idea della fantascienza, come anche in quelli che ha scritto di fantascienza negli ultimi anni, ha scritto cose che è un po' difficile chiamare fantascienza, in cui il mondo è il nostro mondo, appena spostato un po' in avanti di qualche anno, o a volte come negli ultimi due romanzi, neanche tanto spostati, praticamente lo stesso mondo, diciamo, di oggi, un mondo comunque riconoscibile. Sterling spesso, non sempre, in alcuni casi ha fatto così, per esempio Irons, internet, l'isola della rete, è fatto così, ma altri, per esempio Schismatrix, la matrice spezzata, è un affresco di storia futura lunghissimo, con personaggi che vivono centinaia di anni, ma ambientato nel 30.000 d.C., capito? Quindi, e si raccontano, e mentre, diciamo, lo sfondo economico e politico della, diciamo, società in Gibson rimane appena accennato, ci sono le Saibatsu, le grandi cose, e poi sono le storie dei singoli personaggi con gli uomini soldi, per fare cose, o sono storie d'amore, o sono storie di intrigue, storie. Sterling invece è molto più interessato a raccontare la struttura politica di una terra, per esempio, futura. E tu, per esempio, Schismatrix si basa su di una... La si basa su una dicotomia, sulla lotta, sulla contrapposizione culturale, ma anche politica, tra due diversi tipi di cyborg, diciamo. I Mechanist e gli Shapers. I Mechanist sono prediligono il cyborg tradizionale, il cyborg elettromeccanico. Prendono un corpo umano, gli infilano dei pezzi di metallo, delle componenti metalliche o elettroniche artificiali. E loro sono i Mechanist. Gli Shapers invece sono delle specie di cyborg genetici, cioè lavorano sulle condizioni, cioè non è una tecnica, diciamo, è sempre una tecnica dall'esterno, ma agiscono sulle condizioni di vita del sistema di produzione e di riproduzione del corpo umano. E Sterling indaga le differenti opzioni anche di tipo politico, che possono, di politico sociale, che possono essere la conseguenza di questi due diversi atteggiamenti culturali e di come va. Quindi, insomma, capite che ognuno ha il suo modo. Langlo c'ha il suo, Hooker ancora c'ha il suo, Hooker, che tra i tre è quello che sa meglio la scienza, perché è un matematico, e ha scritto anche, insomma, delle cose divertentissime delle parodie, per esempio sul mondo The Master of Space and Time, che è l'ultima cosa che ho tradotto di lui tanti anni fa per Einaudi, e che è una presa in giro del mondo della fisica subatomica, quindi con i quark, i gluoni, l'odore, il colore, il sapore, il pare qua, insomma, è una roba, però lui può farlo perché evidentemente. Allora, quello che a me interessa è cercare di capire, quello che a me interesserebbe, insomma, o che secondo me può essere interessante, poi ognuno se lo mette come vuole, ma insomma. Diciamo, quindi bisogna cercare di risalire da un testo alle condizioni, come dire, alle scelte di fondo, cioè perché un certo autore decide che non ci parla in modo esplicito della componente politica o del mondo sociale, oppure ce ne parla in maniera attraverso che cosa possiamo capire come lui descrive una certa, diciamo, società. Tutto questo, ripeto, senza illudersi che sia possibile totalmente staccare, prendere i contenuti e non parlare della forma, perché se analizziamo, no, il materiale narrativo di un certo autore, sappiamo che questo materiale narrativo però è già scritto dentro certe pagine, quindi ci sarà un certo rapporto tra le cose che dice. Allora, per esempio, vedrete, quando leggerete Gibson, se non l'avete mai letto, vedete bene che Gibson ha un modo di scrivere non più raffinato di quello di Sterling, ma chiamiamolo virgolette più fine dal punto di vista della costruzione della frase e della aggettivazione, della scelta degli aggettivi, cioè non. Il lettore tradizionale di fantascienza è così disturbato da Gibson perché obiettivamente Gibson non ha il modo tradizionale di scrivere di uno scrittore di fantascienza. Come ci aveva Dick era un grandissimo scrittore, ma non ha mai avuto la stessa, tranne che in un'opera o due, diciamo, le stesse paturnie, diciamo, formalistiche che c'ha Gibson. Sterling, che anche lui ha un modo di scrivere tutto sommato più europeo che americano come Gibson, ma se l'ha da un altro punto di vista, è molto meno interessato Sterling alla, come dire, alla scelta di una aggettivazione sofisticata come è Gibson, piuttosto che invece ad una costruzione della frase a volte un po' più. Insomma, ognuno ha la sua strategia, la sua cosa, eccetera, eccetera. Ricordatevi sempre che ogni volta che voi leggete un testo, narrativo, che sia un racconto o che sia un romanzo, voi entrate dentro un mondo, che è il mondo di quel testo, no? Il romanzo. Entrate dentro il mondo dei testi. Attenzione, a voi non è che vi arriva mai un testo astratto, come con una roba che trovate in rete. Vi arrivano dei libri, vi arrivano degli oggetti, c'è una copertina. Se uno legge questo Bannicon qua, lo sa già che è fantascienza, anche se non c'è scritto sopra. Basta l'impaginazione del libro, basta guardare l'editore, sapete chi tutto è. Quindi voi avete una serie di aspettative. Quando voi leggete un romanzo, diciamo, realistico, tradizionale, che romanzo hai letto per ultimo di questo tipo qua? L'ultimo libro che ho letto è Niente di nuovo sul fronte occidentale. Bene, ok, Niente di nuovo sul fronte occidentale. Chi? Vabbè, dobbiamo quello. Niente di nuovo sul fronte occidentale, Eric Maria Remarque. Prima guerra mondiale, o leggo la quarta di copertina, o me l'ha detto la mamma, me l'ha detto il mio amico, so già vagamente cos'è, apro, so che è un libro sulla Seconda Guerra Mondiale. I Promessi Sposi so che è un libro sulla Milano e sulla Lombardia del 600. I Great Gest di Forte Forte Warner, che penso nessuno di voi abbia letto, è un libro sulla America contemporanea. Quindi lo sforzo che devo fare nell'entrare dentro il mondo di un libro di questo tipo è, diciamo, relativo, cioè è relativo alle idiosincrasie diciamo dell'autore, cioè ai personaggi, al tipo di rapporto che sono, ma lo sfondo storico do per scontato di conoscerlo, o che sia il mio mondo contemporaneo, o che sia l'Europa della prima guerra mondiale, la Germania, l'Inghilterra, la Francia della prima guerra mondiale, o che sia la Milano del 600, io suppongo di avere, semmai se c'è qualcosa che non so di quei mondi, lo imparerò nel libro, però le cose di base le ho già. Quando comincio un racconto di fantascienza, e in genere so già prima che è di fantascienza, non ce l'ho questa cosa. Quindi il modo di tutti noi di leggere fantascienza è diverso da quello con cui si legge un libro, un romanzo realistico, no? Perché i miei... Certo, no, ma ve lo dico perché, attenzione, quindi, diciamo, io ho già i sensi e il mio intelletto è già allerta, è già al lavoro. Se ne ho letta tanta fantascienza, posso pure mettermi l'uso dopo due righe di dire, questo è ambientato su Alfa Centauri e ci sono dei robot, cioè, perché so già, magari posso già capire i sottogeneri. Se il libro è molto innovativo, però mi può anche... Allora, questo per dirvi, questo perché ve lo stiamo dicendo, perché mi piacerebbe anche che voi foste in grado di valutare, per esempio, come Gibson o Sterling o quello che volete leggere, se volete fare un lavoro del genere, come Gibson o Sterling o gli altri autori di cyberpunk costruiscono il loro mondo, che indizi mi danno nelle prime pagine, nelle prime righe, per orientare la mia attenzione? Perché la vogliono orientare verso... Adesso facciamo una roba semplicissima, tanto per farvi capire. Il primissimo racconto di Gibson, sì. Frammenti di una rosa colorata. Leggiamo le prime due frasi. Quell'estate Parker faceva fatica a dormire. C'erano interruzioni nella erogazione dell'energia elettrica e gli spegnimenti improvvisi dell'induttore delta provocarono dolorosi e improvvisi ritorni alla coscienza. Allora, in queste due frasi voi avete un personaggio che si chiama Parker e sapete che o soffre di insonnia o per qualche strano motivo fa fatica ad addormentarsi. Poi scoprite che ci sono interruzioni, che sono dei blackout elettrici, ma il termine chiave di questa frase è gli spegnimenti improvvisi dell'induttore delta. Quindi c'è qualcosa, voi vedete, non sapete un cazzo, non sapete una cifra di cos'è l'interruttore delta, perché ovviamente è la prima volta che lo vedete. Però, dalla frase che lui vi dice, provocavano dolorosi e improvvisi ritorni alla coscienza. Quindi è un qualche cosa che induce, quindi sapete che il termine induzione, dovreste sapere che induzione può significare varie cose, tra cui indurre una persona a fare qualcosa o a mettersi in una certa condizione, ma sapete che c'è anche un significato fisico del termine, c'è l'induzione elettrica o l'induzione elettromagnetica. Quindi questo insieme di cose che voi sapete già vi predispone a pensare ad un oggetto, ad un aggeggio che sarà portato sulla elettricità perché dice che ha dei malfunzionamenti quando si interrompe l'elettricità, come è ovvio che sia, quasi tutte le robe che anche nella nostra vita quotidiana ci sono, però l'induttore delta non è. Se poi sapete anche, magari, vi ricordate, vi viene alla mente vagamente che la parola delta è associata, per esempio, a una dei quattro tipi di onde cerebrali, alfa, beta, delta e teta, e sapete che sono quattro queste cose qua, allora forse pensate che è qualcosa che ha a che fare con l'attività cerebrale. Allora, è chiaro, da una sola frase voi avete, e quindi si può valutare che cosa lui già quando mi dà questa cosa mi predispone a dire guarda che sei in un mondo in cui c'è un misterioso oggetto che induce degli stati di coscienza probabilmente alterati, perché dice l'improvviso ritorno alla coscienza, quindi o ti fa addormentare e intanto naturalmente fa qualche cosa, tutte cose che poi nel corso andate avanti a leggere, però quando voi leggete quanta scelta, ogni riga che voi leggete è una correzione, è un feedback che date alle righe precedenti. Ah, allora vuol dire questo, allora vuol dire quest'altro. Una delle cose da valutare in un testo di fantascienza, più precisamente che non in un testo come un giallo o cose di questo tipo, è che non solo un testo di fantascienza vi racconta una storia, ma la storia e vi costruisce un mondo che voi non conoscete ancora. Per cui il modo in cui si intreccia lo sviluppo narrativo, il modo di raccontare la storia, di proporre la storia, e il modo di costruire il mondo può essere una cosa interessante. Nel cyberpunk, nel testo del punk, questo è un fenomeno neuromante che ha uno degli incipit più strepitosi di tutta la letteratura del Novecento. Il cielo aveva il colore di un televisore sintonizzato su un canale morto, che infatti è citatissimo, eccetera. Già con quell'incipit, in cui non vi dice nulla, perché l'incipit potrebbe essere compatibile anche con un romanzo realistico, ma in realtà la bellezza di quell'incipit è che vi predispone, se anche non sapete che quello è un romanzo di fantascienza, la lettura di questa sola frase, la scelta di questa metafora da parte di Gibson, vi suggerisce che lui faccia una crasi, una sintesi, una correlazione improvvisa e, diciamo, inedita tra un elemento naturale, il cielo, e un elemento tecnologico, la televisione, che basta solo questo per dirvi siamo nella fantascienza. È una sorta di meta-informazione che c'è in quella frase, diversa dal fatto di metterci una roba chiamata induttore delta, però anche quella, allora capite, questo è per dirvi, avete 10.000 diciamo, approcci possibili, 10.000 strategie, avete una grande ricchezza di modi di approcciare un testo per chi vuole fare un lavoro, diciamo, sul testo. Quindi poi ognuno di voi lo farà nel modo che gli è più congeniale a lui, a voi, insomma, eccetera. Quindi non è che dico che capisco bene che poi se uno è più attento a un'analisi stilistica farà più analisi stilistica che... però vi chiederei, se volete fare questa cosa, di tenere conto il più possibile del carattere composito e stratificato di questi testi, che sono più sofisticati di quanto i critici letterari di solito, quelli che si occupano di letteratura alta, letteratura seria, non vogliono ammettere. Anche dietro a questi testi ci sono sapienze, strategie, narrative che... Va bene, basta. Di modo che posso andare, non so quanti di voi vedrò a questa sessione di esami. E ricordatevi che dovete mandare questo testo almeno 5-6 giorni prima. Oh.